storia e la memoria di Dino Pesole. Con l'ingresso nell'azionariato della Pirelli del colosso cinese China National Chemical Corporation, per la Pirelli, una delle più importanti antiche aziende industriali italiane, inizia una nuova era, un'era a maggioranza cinese. È una lunga storia quella della Pirelli, nata a Milano nel 1872 ad opera dell'ingegnere 24enne Giovan Battista Pirelli. Inizialmente la Pirelli produce articoli in gomma, ma ben presto avvia il processo di diversificazione dei suoi prodotti attraverso la produzione di conduttori isolati per telegrafia, cavi telegrafici sottomarini e il primo pneumatico per bicicletta. Il primo pneumatico per automobile, Ercole, è del 1901. Con il nuovo secolo arrivano anche le prime vittorie sportive, tra cui ricordiamo la Pechino-Parigi del 1907, e comincia il processo di espansione internazionale con l'apertura di nuovi stabilimenti in Spagna nel 1902, in Gran Bretagna nel 1914 e in Argentina nel 1917. Negli anni 20 Pirelli sviluppa la tecnologia Cord e i suoi pneumatici approdano alle gare automobilistiche, segnando l'inizio di un cammino proseguito fino ai giorni nostri e coronato di numerose vittorie in gran premi di Formula 1, rally, superbike, oltre che nella celebre Mille Miglia. E proprio in questi anni Pirelli dà il via alla produzione della prima gamma di cavi con l'isolamento in olio. Nel 1908 nasce la P dalla forma allungata, che ha reso celebre Pirelli nel mondo. All'inizio degli anni 50 Pirelli sviluppa il radiale cinturato. Nel frattempo prosegue l'espansione all'estero con l'acquisizione della tedesca Germanis Weit Gummiwerke nel settore degli pneumatici e l'avvio di attività per la produzione di cavi in Australia e in Perù. Sempre negli anni 60 in Italia aprono gli stabilimenti di Settimo Torinese per gomme vettura, di Villafranca Tirrena per gomme motociclette e Giovinazzo per cavi in plastica. A metà anni 70 arriva una nuova gamma di pneumatici, i ribassati, che presentano una particolare copertura del fianco, molto più bassa rispetto alla larghezza del battistrada e proprio per questo in grado di aumentare la tenuta di strada. Di questi anni è la fusione con la britannica Dunlop. Intanto Pirelli sviluppa un prodotto destinato a rivoluzionare il settore cavi, la fibra ottica. L'inizio del nuovo decennio è segnato dalla ristrutturazione del gruppo impressa da Marco Tronchetti Provera, che assume la guida operativa. Della storia della Pirelli parliamo questa sera con il professor Patrizio Bianchi, economista e assessore alla scuola formazione professionale, università e ricerca, lavoro della regione Emilia-Romagna. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Lo ricordiamo, il professor Bianchi, autore tra gli altri del libro La rincorsa frenata, l'industria italiana dall'unità nazionale alla crisi globale, pubblicato dal Mulino. Allora professore, la lunga storia della Pirelli che abbiamo tratteggiato brevemente, adesso la Pirelli è a maggioranza cinese, che cosa è la Pirelli per il nostro paese? La Pirelli è un po' una sorta di monumento, ma anche di cartina di tornasole del nostro paese, è sempre stata parte di quel nocciolo, diciamo nocciolino duro di grande impresa italiana, che è passata tramite la prima grande crescita, quella del Novecento, quella di Giolitti, poi è entrata nella crisi degli anni 30, ma è uscita. In quell'epoca il nostro sistema ha fatto i grandi pilastri del nostro impianto, quindi da una parte poche imprese private grandissime, la Fiat, la Pirelli, la Orlando, e dall'altra parte le imprese pubbliche. E poi una legge che sostanzialmente impediva alle banche di prendere parte all'azionariato delle imprese. Questo sistema è durato fino agli anni 90 del Novecento, dopodiché è cominciata una fase che in un qualche modo cambia le carte in tavola, che è quella della globalizzazione, cioè quella in cui tutti giocano su tutto e tutti devono giocare anche con una dimensione adeguata al nuovo mercato. In questo contesto ci stanno diverse operazioni che la Pirelli, ma anche le altre imprese italiane hanno fatto, cioè quella del posizionarsi con più specializzazione di prima su mercati che sono infinitamente più grandi di prima. Io leggerei questa cosa, è un simbolo di un paese che per anni ha pensato di poter vivere sul mercato interno, poi ha pensato di dire sul mercato europeo e adesso deve fare i conti con il grande mercato globale. E infatti, professore, lei giustamente citava la globalizzazione, ma appunto in epoca di globalizzazione ha ancora senso puntare sulla presunta difesa della cosiddetta italianità delle imprese italiane, oppure questo è un concetto che con la globalizzazione è destinato inevitabilmente a tramontare? Guardi, per anni la difesa della italianità nelle grandi imprese è stato più un modo per conservare la proprietà piuttosto che per far crescere le imprese. Le ricordo per quanti anni abbiamo discusso della proprietà italiana della Fiat, più guardando al controllo a parità di dimensione che non a far crescere il sistema e l'impresa complessiva a livello globale. No, io credo che a questo punto il tema non sia tanto quello della difesa di una italianità basata sulla proprietà, e proprietà come abbiamo visto che sono state poi anche molto contaminate negli anni passati, ma quello di ricordare che è nell'interesse del paese avere qui grandi imprese globali, non multinazionali, globali, cioè capaci di giocare su tutto il globo, mantenendo qui la parte più rilevante delle imprese, cioè quella ad alto valore aggiunto. Certo. Quindi la ricerca, quindi i prodotti fortemente innovativi e anche il comando dei sistemi. Però le ricordo questo, nel caso dell'automobile, 20 anni fa finì in Inghilterra la proprietà inglese degli impianti di automobili e sembrava che in quel paese non si siano più fatte automobili. Oggi l'Inghilterra è tornata a essere un produttore di automobili perché tutte le imprese, non solo giapponesi, hanno convenienza a produrre in Inghilterra. Un'ultima domanda, professor Bianchi. Nel suo libro, che ripercorre appunto le vicende dell'industria italiana dall'unità nazionale alla crisi globale, lei parla di rincorsa frenata. In che senso? Ma è proprio questo il tema. Io credo che in tutta la nostra storia italiana vi sia stato un sostanziale deficit, diciamo, nel rapporto proprietà-sviluppo. Più attenti a mantenere le proprietà, a volte familiari, ma anche di famiglie di seconda, terza, quarta generazione, quindi complicate, piuttosto che non puntare decisamente su una crescita delle imprese e di tutto quello che attorno è alla grande impresa. Dall'altra parte l'impressione è che vi è stata anche una cultura di governo che era molto rivolta all'interno, più a mantenere le condizioni preesistenti che non quelle di anticipare il cambiamento. Mi pare che questo sia un momento importante che implica due cose. Uno, un cambiamento nelle strutture di proprietà e quindi anche la capacità di riportare oggi, in questo momento, risorse nelle imprese. Mm-hmm. Siamo in una situazione in cui ci sono condizioni macroeconomiche molto favorevoli, ma bisogna direzionarli verso attività produttive. Abbiamo tante imprese di medie dimensioni che possono diventare grandi. Dall'altra parte bisogna cambiare una cultura di governo e imparare anche noi a giocare più in grande. E già, perché noi poi dobbiamo sempre considerare che le grandi imprese in Italia ce ne sono ormai pochine, siamo un tessuto produttivo caratterizzato da moltissime piccole e medie imprese e poi in un contesto in cui la politica industriale sostanzialmente non c'è. Ma guardi, però è anche vero un fatto che in questi 10 anni noi abbiamo cambiato molto anche il nostro mix, diciamo, di esportazioni. Sì. Perché 10 anni fa avevamo un paese che aveva un gruppo di grandi imprese molto rivolte a difendere un mercato interno e avevamo una serie di piccole e medie imprese, ma in questi 10 anni di crisi in realtà tutto il settore, ad esempio, delle macchine di produzione è cresciuto moltissimo. Perché? Perché vendevano tecnologie che non avevano sviluppato, ad esempio, ai grandi produttori cinesi che stavano crescendo e che quindi hanno sviluppato una domanda a livello mondiale di macchine e tecnologie di produzione. Noi oggi abbiamo 4.000-4.500 imprese di media dimensione che però sono leader dei specifici comparti in cui operano. Il caso classico è il packaging, in cui le nostre imprese sono leader assoluti a livello mondiale. Il problema adesso è far diventare queste grandi imprese, cioè bisogna rimettere in movimento un sistema, anche considerando che per operare a livello mondiale occorre una dimensione adeguata. Professor Bianchi, molte grazie e buona serata. Grazie per essere stato con noi. Grazie.